Europa 24. Un saluto da Gigi Donelli. Innanzitutto le condanne dei blogger anti Putin Alexei Navalny e di Pyotr Ofizerov. Sono arrivate le prime reazioni da Bruxelles, si parla in un comunicato di preoccupazione per condanne che sollevano seri interrogativi sul rispetto dello Stato di diritto in Russia. Così l'alto rappresentante UE per la politica estera Catherine Ashton, che invece delude la fratellanza egiziana, che ha espresso appunto questa posizione per la posizione adottata dall'UE dopo l'incontro dell'Ashton ieri al Cairo con il capo del governo egiziano Mohamed El Besher, capo della delegazione che ha incontrato l'Ashton. Infatti la critica riguarda il fatto che l'UE non abbia finora denunciato esplicitamente il golpe militare che ha deposto Mohamed Morsi. E ora intanto dalla Grecia al via libera del Parlamento appunto di Atene la riforma sulla pubblica amministrazione. Dunque, dopo settimane di scioperi, Atene ha dato l'ok alla riforma che prevede il licenziamento, la cassa integrazione o lo spostamento ad altre funzioni di oltre 25.000 dipendenti pubblici. Un taglio necessario, una riforma lacrime e sangue da approvare a tutti i costi, vincolata agli aiuti economici dell'Unione Europea, Banca Centrale Europea e Fondo Monetario Internazionale, ovvero la Troica. Atene usa la mano pesante e mette in atto quella stangata temuta dai greci che da settimane scioperano e protestano. 25.000 dipendenti pubblici saranno licenziati, cassi integrati o, nella migliore delle ipotesi, spostati ad altre funzioni. Una misura che in un paese martoriato dalla disoccupazione con un tasso pari a quasi il 27% di sicuro non rappresenta un segnale di speranza, ma il Parlamento non poteva fare altrimenti. A breve è prevista una nuova tranche di aiuti da parte della Troica pari a 7 miliardi di euro. Non solo, Bruxelles non ha escluso che alla fine del programma di sostegno economico nei confronti della Grecia, che si concluderà nel 2014, possa restare un buco finanziario fra i 3 e i 4 miliardi e mezzo di euro. Il disegno di legge è stato approvato in piena notte con una maggioranza di soli 5 voti, a poche ore dalla visita del ministro delle Finanze tedesco Schauble, visto dai greci come il principale sostenitore delle misure di austerità. Stefano Totoro, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ora a Bruxelles, dove la rabbia degli stagisti ieri ha conquistato la piazza. Sentiamo. L'hanno battezzata Sandwich Protest, la protesta del panino, ovvero l'unico cibo che l'esercito di oltre 2.000 stagisti presenti a Bruxelles si può permettere. In oltre 200 si sono riuniti a Piazza Luxembourg davanti all'Europarlamento ormai semivuoto per il periodo estivo. I tirocinanti lamentano posizioni mal retribuite o con contenuto di basso livello, lavoro gratuito, mancata valorizzazione e più di tutto descrivono l'incertezza del domani. I think the main problem with stagiaries and interns around Europe these days is that interns are replacing real jobs. Penso che il vero problema, dice lo spagnolo Victor Garcia Bragado, sia il fatto che stagisti e tirocinanti in Europa stanno di fatto sostituendo i lavoratori retribuiti, e tutto questo gratis. Tra le comunità più rappresentate c'è quella italiana. Basti solo ricordare che una ogni 5 richieste di stage nell'istituzione europea a marzo 2013 arrivava proprio dal bel paese. La sfida è mettersi in rete grazie anche ai social network, una piattaforma per cambiare le regole tutti assieme e vedere riconosciuta una carta dei diritti e magari potersi permettere qualcosa di più di un sandwich. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Cambiare le regole dunque per uno strumento che resta molto importante per l'accesso alle professioni. Allora oggi Federico Taddia ci fa il punto proprio su un altro aspetto di questo medesimo tema. Sono Federico Taddia e oggi vi segnalo una interessante opportunità lavorativa in una delle più importanti istituzioni europee. Si tratta del bando per svolgere tirocini retribuiti della durata di 5 mesi all'interno della Commissione europea o di uno dei suoi organi. Ci sono circa 1.300 posti disponibili in vari ambiti, quello legale, le risorse umane e la politica ambientale. Per fare domanda bisogna essere in possesso di una laurea triennale, avere un'ottima padronanza di inglese, francese o tedesco e una buona conoscenza di una seconda lingua ufficiale. I tirocini cominciano a ottobre e a marzo. Per mandare la propria candidatura c'è tempo fino al 30 agosto. Tutti i bandi specifici e le informazioni si trovano sul sito ec.europa.eu/stage. E naturalmente tra poco su radio24.it. Bene, con questo è tutto. L'appuntamento di Europa 24 è per domani alle 13.15. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.